inteso, il governatore voleva dire una cosa molto semplice: confutare la tesi secondo cui per dare posto ai giovani bisogna mandare gli anziani in pensione. Falso. E lo dimostrano i paesi in cui gli anziani lavorano in misura maggiore che in Italia e anche i giovani trovano più posti di lavoro. Il che vuol dire che i posti di lavoro non sono dati, non si tratta solo di distribuirli quello che è dato. È possibile aumentare gli uni e gli altri. Certamente in questa fase molto complicata in cui il nostro modello di ammortizzatori ha difeso i lavoratori con i posti in modo molto efficace, e si doveva fare così, certamente coloro che sono lì alla finestra in attesa che si liberino i posti soffrono un po'. A questo punto bisognerà veramente, come si preannuncia di fare da quello che si dice, mettere in atto delle politiche della formazione e del lavoro che cerchino di combinare meglio alcuni posti di lavoro esistenti che ci sono con i giovani che sono disoccupati. Bisogna adattare anche le aspirazioni e le ambizioni.